poi questo fanno questi benedetti tetti verdi. Grazie Pellizzaro, ci sentiamo venerdì per parlare di ondate di caldo. Grazie mille a voi. Ci fermiamo qui, domani parliamo di protezione civile 2.0.